la situazione è molto drammatica, non è una novità, la situazione è così da circa un anno. Noi abbiamo già fatto una denuncia insieme ad altre associazioni locali a febbraio dell'anno scorso, però purtroppo le cose, anziché migliorare, stanno peggiorando. Le file sono dal giorno prima, perché l'apertura dell'ufficio è martedì e venerdì, martedì pomeriggio e venerdì mattina, però le file si creano dal pomeriggio del giorno prima per riuscire ad acchiappare appunto un numero, perché la mattina vengono distribuiti da 10 a 15 numeri per poter accedere all'ufficio asilo e per poter accedere alla domanda d'asilo. E questo riguarda i richiedenti asilo, quelli che non sono, diciamo, all'interno del circuito dell'accoglienza, giusto? Certo, certo. Infatti quello che a noi sembra veramente illegittimo e anche discriminatorio è la differenza tra chi è accolto e chi non è accolto, perché chi è accolto ha, diciamo, un canale preferenziale per l'accesso e non è obbligato a fare queste file, appunto, perché poi le persone non è che fanno la fila ed è certo che un giorno dopo entrano e riescono a presentare la domanda d'asilo. Può essere anche per settimane che vanno a fare le file prima di riuscire, perché non è solo la fila, ma ci sono tutta una serie di altri ostacoli che noi appunto denunciamo con questa lettera, che di fatto pregiudicano l'effettivo accesso alla domanda d'asilo. Ostacoli che non sono richiesti a chi invece è nel sistema di accoglienza. Il problema c'è anche per i migranti che invece devono rinnovare il permesso di soggiorno. Sì, cioè il problema di tutti gli altri, diciamo, immigranti ordinari che rinnovano i permessi di soggiorno ordinari e di altro tipo, ovvero la lunghaggine dei tempi per avere il rinnovo del permesso di soggiorno, che si gira intorno a 7-8 mesi in cui la persona rimane con una ricevuta, il cosiddetto tagliandino, che non è considerato comunque valido da tanti, dal datori di lavoro, agenzie di lavoro, eccetera eccetera, quindi lasciando le persone in una situazione di limbo. Queste lunghaggini di attesa del rinnovo del permesso di soggiorno riguardano anche i richiedenti asilo, che hanno i permessi provvisori, che per poter rinnovarli devono farlo tramite questo sistema prenota facile, che è tutto ma non facile, e i tempi, una volta riusciti ad ottenere questo appuntamento, per poi avere appunto l'appuntamento, dalla data in cui si richiede a quando viene dato, sono intorno a 7-8 mesi, che sono dei tempi veramente veramente molto lunghi. Altre prassi illegittime messe in atto dall'ufficio immigrazione della Questura di Bologna per quanto riguarda l'accesso di asilo, che noi denunciamo non solo adesso ma anche appunto nel passato abbiamo denunciato, sono questa richiesta di smarrimento del passaporto per chi non lo ha, che comunque è una richiesta non prevista dalla legge, perché la legge prevede, decreto legge 25 del 2008 prevede l'obbligo di consegnare il passaporto quando uno lo ha, ma se uno non lo ha, non ha nessun obbligo di fare una denuncia di averlo smarrito lungo la rotta migratoria, perché spesso è questo: la persona parte dal paese di origine magari con un passaporto, ma lungo la rotta migratoria lo perde. Doverlo denunciare una volta in Italia in assenza di permesso di soggiorno espone la persona a rischio di espulsione, ed è una persona che è in Italia al fine di chiedere domanda d'asilo, quindi c'è proprio una contraddizione. Poi l'altra cosa che denunciamo è anche la questione della documentazione richiesta solo alloggio, perché lì altrettanto è molto evidente la discriminazione tra chi è accolto e chi non è accolto, perché chi è accolto ha una dichiarazione di ospitalità del centro di accoglienza e basta. Chi è accolto invece da un privato, spesso un connazionale, la questura richiede la dichiarazione di ospitalità, il documento del dichiarante, il titolo sulla base del quale quella persona mantiene l'immobile, che può essere rocito piuttosto che un contratto di affitto o un contratto di comodato d'uso, e poi, se chi fa la dichiarazione non è il proprietario, anche il consenso del proprietario con il documento di identità del proprietario. Tutte cose che nessuna norma prevede per quanto riguarda i richiedenti asilo, ma neanche per quanto riguarda i migranti ordinari. È necessario dichiarare il domicilio tramite una dichiarazione di domicilio. Per quanto riguarda i richiedenti asilo, l'articolo 5 del decreto legge 142 del 2015 prevede proprio che è sufficiente un'autodichiarazione e non tutta questa serie di documenti che appunto la questura richiede, sulla quale c'è un grosso mercato nero di vendita di dichiarazioni di ospitalità false, di cui sono tutti a conoscenza, però comunque la prassi continua ad essere questa è una prassi che è in atto da anni. Tornando un attimo alle file che si formano davanti appunto all'ufficio, nella primavera scorsa anche il questore aveva annunciato l'arrivo di nuovo personale all'ufficio immigrazione, non è servito a nulla? Del nuovo personale è arrivato effettivamente, ma non è servito a nulla, nel senso che poi va a periodi, magari nella primavera c'era un po' meno di persone in arrivo e quindi un po' meno di file, però adesso, da dopo l'estate, le file sono veramente lunghissime, il personale si vede che non è sufficiente. Comunque noi nella lettera facciamo anche richiamo a questa direttiva del Ministero degli Interni, che è di oltre un anno fa, fa, con la quale viene imposto agli uffici immigrazione di tutta Italia e quindi anche alla nostra questura di attivare tutte le misure organizzative necessarie al fine di dare effettivo accesso al diritto d'asilo, cosa che non ci sembra essere stata fatta dalla nostra questura. Voi cosa chiedete quindi? Questo, chiediamo la cessazione di tutte le prassi illegittime in atto e mettendo appunto in atto tutte le misure organizzative necessarie, quindi se è necessario la richiesta di più personale, se è necessario l'apertura dell'ufficio in più giorni, con orari più lunghi, quello che la pubblica amministrazione ritiene di dover fare anche in base a quanto appunto ordinato dal Ministero stesso, affinché sia garantito un effettivo accesso al diritto d'asilo in modo dignitoso e umano e non in questo modo completamente disumano.